Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Questa sera vi raccontiamo la storia di un digital storyteller, un creativo che opera in ambito internazionale per top brand, gallerie d'arte e istituzioni culturali. Parleremo di innovazione, dell'esperienza e dei linguaggi per il patrimonio artistico e culturale e di una nuova forma di mecenatismo che rivoluziona la comunicazione di impresa. Si allaccia a questo tema anche una delle campagne premiate con il Leone d'Oro al Festival della Creatività di Cannes, protagonista l'Opera House di Sydney, edificio iconico, simbolo della città nell'immaginario collettivo, e la sua sfida, portare i millennials all'opera superando i preconcetti sulla musica classica. Focus sui trend dedicato invece all'economia circolare, manifattura ma non solo, in tutti i settori l'industria si prepara a rimettere in circolo il già utilizzato per chiudere il cerchio del consumo. Le principali opere pittoriche e scultoree del Rinascimento, elaborate con tecniche digitali, proiettate sulle pareti delle volte della Sala d'Arme di Palazzo Vecchio a Firenze, una colonna sonora emozionante, la voce narrante di Andrea Bocelli, otterrete Magnificent, un progetto che nel 2015, beato chi ci è andato, ha saputo raccontare in un modo mai visto prima la storia della bellezza che ha rivoluzionato il mondo. Partiamo da qui per raccontare, per conoscere Felice Limosani, artista e creativo multidisciplinare. Lui si definisce digital storyteller, tra i principali innovatori italiani riconosciuti nel mondo. Buonasera Felice. Buonasera a tutti. Allora, siamo partiti da Magnificent. Quanto spazio di innovazione c'è per raccontare il patrimonio artistico e culturale? Ma io ritengo che ce ne siano molti di spazi, a patto che ci sia, come dire, questo approccio verso la narrazione emancipato da metodi e anche da rigidità. Quindi ho mescolato senza paura accadimenti reali privi della cronologia didascalica che spesso accompagna l'esperienza museale, per dimostrare tutta l'attualità che non tanto la storia del Rinascimento, ma che le storie, in questo caso il Rinascimento, posseggono. Le tue opere, installazioni, mostre, video mettono insieme arte, design, linguaggi non convenzionali per brand, per gallerie d'arte, istituzioni culturali. È impossibile citarle tutte, invitiamo a cliccare direi quasi a caso su felicelimosani.com per averne un'idea. Ecco, dove trai ispirazione? Ma guarda, l'incrocio creativo tra arte, comunicazione e tecnologia credo che abbia delineato nuove esperienze, questo ormai è chiaro a tutti. Credo che il design thinking sia il motore di questo scenario, quindi i luoghi della cultura come le brands, secondo me quelle più evolute, sono veri laboratori di sperimentazione dei nuovi linguaggi espressivi e sono ambiti in cui il pubblico ha cessato di essere solo spettatore per diventare consumatore. Quindi io ritengo che mettersi in gioco con le idee sia imprescindibile, immaginare e realizzare narrazioni talentuose su piattaforme differenti e con linguaggi multipli sia la premessa. E questo, se vuoi, è la dimensione del mio digital storytelling. Tu fai parlare palazzi storici con fasci di luce, la street art con il Made in Italy e poi ancora ho visto un globo con le matite. Immagino che sia difficile far capire ai committenti all'inizio che cosa vuoi fare. Che cosa ti sei sentito dire in positivo e in negativo in questi anni? Regalaci un aneddoto. Ne avrei tanti, però forse il vero aneddoto è che la poetica del remix, e quindi la creatività combinatoria tipica di un DJ, sono stato DJ 20 anni e quindi la mia mentalità si è formata su questa visione curiosa, creativa, lasciatemi dire anche molto concreta, perché a mio avviso in questo momento più che mai c'è tanto spazio per immaginare, per creare, per fantasticare, ma ovviamente bisogna stare nella certezza, nel tangibile e nell'afferrabile. Non a caso il mio motto è testa per aria e piedi nel cemento. Quando prima dicevo che le aziende sono diventati dei veri laboratori di sperimentazione, non lo dico banalmente perché le grandi brand dispongono anche, lasciatemi dire, delle risorse necessarie per creare le cose. Lo dico principalmente perché a mio avviso sono quelle realtà che ben accompagnate possono restituire un significato al concetto di mecenatismo, ecco, un mecenatismo che però non deve essere considerato 2.0 come spesso sento dire, ma al contrario 0.0, cioè un reset totale che permetta alle aziende di comunicare in un modo coinvolgente, emozionante, ricco di significato, ricco di metafore e messaggi, restituendo alla gente bellezza, esperienze che in qualche modo facciano innamorare, e tutto questo senza dover necessariamente pubblicizzare qualcosa o vendere qualcosa, semplicemente per regalare esperienze, e poi sarà il pubblico, se mai sarà necessario, che diventerà in alcuni momenti anche un consumatore di quella realtà. Quindi oggi su questo scenario è possibile modulare, come se fosse un equalizzatore nelle mani di tutti noi, la nostra offerta, il nostro racconto e la nostra storia. C'è quindi, Felice, un modo nuovo di fare comunicazione d'impresa che ha appunto molto meno a che fare con il prodotto e molto di più invece con la relazione tra il brand e chi lo vive. Sì, è così. Ci terrei anche per sfatare un po' quello che è il mio cavallo di battaglia degli ultimi 15 anni, dove una giornalista mi disse: signor Limosani, non ho capito esattamente cosa fa, ma complimenti perché lo fa benissimo. Ci tengo a specificare che in realtà oggi gli argomenti sono molto chiari a questo proposito, e soprattutto cerco di dire in due parole che cosa significhi esattamente occuparsi di digital storytelling, dove per storytelling ovviamente ci deve essere una storia. Ammesso che non ci sia una realtà, una brand o una dimensione culturale con una storia, è sempre possibile raccontarne una nuova, a patto che questa storia sia densa di significato, originale, autentica, sincera, potente per l'immaginario, dove però poi la componente digital non è banalmente riconducibile ai contenuti multimediali, quindi all'associazione di musica, immagini e testi, ma al contrario è qualcosa che mette in relazione il pubblico che vive fisicamente un'esperienza reale in un determinato luogo, e subito da quel momento in poi deve desiderare di condividere quell'esperienza online, alzando l'asticella dell'engagement sulla rete, aumentando in maniera esponenziale la viralità della storia, quindi far partecipare altri pubblici con i suoi feedback, con delle conversazioni online, con il mi piace, non mi piace, il dibattito, insomma digital storytelling è quello. Grazie a Felice Limosani per essere stato con noi. Grazie, ciao a tutti. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Anche il mondo della comunicazione cerca nuove strade per comunicare l'arte e la cultura. Premiata con il Leone d'Oro al Festival della Creatività di Cannes, la campagna per l'Opera House di Sydney firmata Interbrand. Ne abbiamo parlato con Manfredi Ricca, responsabile della strategia Interbrand in Europa. Il progetto nasce paradossalmente dal fatto che la Sydney Opera House è una costruzione, è un luogo noto e potremmo veramente dire iconico, tanto da gettare addirittura l'ombra su quello che poi è la vera istituzione culturale. L'obiettivo di questo progetto era quello di creare un brand in grado di far sì che il guscio non fosse più più importante dell'istituzione che nasce in realtà per promuovere. La sfida era avvicinare i millennials all'opera. Sì, e per questo è stato scelto un linguaggio che è estremamente contemporaneo, io ovviamente invito tutti a vederlo e a goderselo, perché si basa su prevalentemente su un alfabeto che è stato creato ad hoc, che riprende quelle che sono le movenze architettoniche dell'Opera House, quindi questi tagli di luce, e riprende quella che è la sensazione di vedere questa bellissima architettura con la luce inclinata, quindi ha una serie di ombre, una serie di tagli di luce che anche solo attraverso l'alfabeto è in grado di sublimare quella che è la sensazione e l'esperienza architettonica. Grande ricaduta social della campagna, soprattutto in questo caso dal punto di vista visuale, appunto. Sì, perché effettivamente oggi occorre pensare a un'istituzione come la Sydney Opera House, ma anche teoricamente qualsiasi teatro con delle vere ambizioni e con la volontà di essere rilevante oggi, occorre pensare a queste istituzioni come a produttori e creatori di esperienze. Il futuro è fatto del luogo virtuale che sostituisce ma deve catturare l'esperienza del luogo fisico. Chiudere il cerchio, close the loop, è la regola dell'economia circolare, il paradigma del futuro, dicono gli esperti. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Essere e avere. La bellezza è la moneta della natura. Non bisogna accumularla, ma farla circolare. John Milton. Focus sui trend. Dalle sneakers ai mobili, passando per il mondo del cibo, il recupero dello scarto diventa protagonista secondo logiche non solo di consumo ma anche e soprattutto di produzione. È la grande rivoluzione dell'economia circolare, ne parliamo dal punto di vista del design con Lucia Cromesca di Future Concept Lab. Buonasera Lucia, bentrovata. Buonasera a tutti. Allora, da dove partiamo? Partiamo ovviamente dalla sala introduttiva della 15ª Biennale Internazionale di Architettura. Perché? Perché rappresenta la sintesi del futuro dell'architettura, secondo Alejandro Aravena, che è il curatore proprio della mostra di quest'anno, che dice no allo spreco. Ecco, l'installazione Reporting from the Front all'Arsenale è una vera dichiarazione di questo intento, perché è realizzata riutilizzando 100 addirittura tonnellate di materiale di scarto, 10.000 metri quadrati di cartongesso e 14 chilometri di montanti metallici, tutti scarti provenienti tra l'altro dallo smantellamento dell'edizione 2015 della Biennale Arte. Beh, le immagini sono sicuramente di impatto, come sempre sulla nostra pagina Facebook. Lucia, sul recupero dello scarto da reimpiegare a livello industriale, molte imprese stanno costruendo il proprio modello di business, c'è soprattutto molta ricerca sui materiali. Certo, per esempio Hunter Douglas, leader mondiale di sistemi per tende tecniche e protezione solare, ha appena sviluppato Citex, un nuovo tessuto per i sistemi di tende a rullo realizzato con plastica raccolta nelle zone costiere. Ecco, questo nuovo tessuto infatti utilizza il filato bionic FLX, lo stesso che G-Star, il marchio di moda, sta usando per la linea Rufford Ocean, un filo ecologico composto da fibre derivate dal riciclo delle bottiglie di plastica ritrovate negli oceani. Il prossimo caso ci porta nel settore del cibo e della grande distribuzione, qui è una bella sfida. Forse l'unico esempio in livello mondiale è uno speciale supermercato per prodotti scaduti che è nato a Copenaghen qualche mese fa. Vende cibi scaduti ma ancora perfettamente commestibili. Si chiama WeFood e vende le eccedenze alimentari dei supermercati con prezzi ridotti dal 30-50%, e questo è possibile grazie alla collaborazione di WeFood con la catena di supermercati Forex, che sta mettendo a disposizione pane, altri prodotti alimentari, ma anche collaborazione con produttori locali di frutta e verdure bio. Ecco, WeFood non è che si rivolge soltanto alle persone che hanno un budget ridotto per la spesa, ma anche a chi semplicemente come noi è preoccupato per gli enormi quantitativi di cibo che ogni giorno finiscono tra i rifiuti. Un supermercato come tutti gli altri, insomma, anche nell'immagine molto glam. Sai che in questa parte nord del mondo le cose si fanno in una maniera molto elegante. Passiamo ora ai prodotti, ai casi che hai selezionato per noi, perché questa tendenza ha anche prodotti simbolo. Sì, come hai detto tu, è diventata la nuova missione aziendale sia per le aziende grandi sia per quelle piccole di accelerare il passaggio all'economia circolare. Uno degli esempi è Nike, che sta ridisegnando il proprio sistema di produzione in modo che risulti al 100% a ciclo chiuso, quello che gli anglosassoni chiamano closed loop, eliminando qualsiasi rifiuto e materiale di scarto. Partendo dai rifiuti, Nike ottiene un materiale riciclato chiamato Nike Grid. Questo materiale viene ricavato dal recupero di vecchie scarpe che si possono riciclare, cioè tu li porti al negozio e si riciclano. Si ricicla anche la bottiglia di plastica, scarti di produzione, ma l'idea principale forte è che oltre a riutilizzare i materiali di recupero per produrre le nuove scarpe, Nike addirittura ne rivende una parte a chi li impiega per la produzione di rivestimenti, per i pavimenti delle palestre e per le piste da corsa. È un po' il fenomeno che sta avvenendo anche nel mondo dell'energia, che è una bella metafora, no, in questo caso, quindi autoproduzione, co-creazione, condivisione per tutti i settori. Aziende illuminate come IKEA, che nella prossima collezione PS, che è prevista nel 2017, continuerà a esplorare il mondo dei millennials, consumatori che tra le altre cose sono molto attenti dell'impatto ambientale di tutto quello che comprano. Infatti molti prodotti della nuova collezione sono completamente realizzati con materiali riciclati, come bottiglie di plastica PET e vetro difettoso, ma da sottolineare che lo scarto proviene dall'impianto di produzione del rivenditore in Cina, perciò da IKEA stessa. Anche le piccole aziende come Rare Form, che è una fondata nel 2012 in Santa Monica, un marchio di accessori outdoor, impegnato nella creazione di prodotti dal riciclo di cartelloni pubblicitari. Sono cartelloni che vengono intercettati prima che finiscono in discarica. Così, riciclando i cartelloni, che sono realizzati in resistente materiale vinile, fanno un vero e proprio upcycling e producono davvero progetti unici, da borse, tavola da surf, siamo in California, a zaini, da custodie per iPhone a portafogli, borse a tracolla a protezioni semplicemente per l'iPad. Siamo all'ultimo caso, Lucia. Ecco, altre piccole aziende, in questo caso una startup svedese, si chiama Rescued. Loro producono confetture e succhi da frutta la cui maturazione è troppo avanzata per essere venduta nei negozi. Rescued ha cominciato trattando solo confetture e ha ampliato il suo portfolio producendo anche succhi quando si sono resi conto che la quantità di frutta che riuscivano a recuperare era davvero esagerata. È da sottolineare che il nuovo marchio è strategicamente collegato a Helsingborg, è la più grande città importatrice di frutta del paese scandinavo. Ecco come è venuta l'idea. Quindi non di nicchia, perlomeno nelle proiezioni di crescita, stiamo parlando, Lucia. Stiamo parlando di obiettivi principali di aziende davvero illuminate. Il consumautore. Siamo alla riflessione finale in compagnia, come sempre, del nostro ospite fisso, il sociologo Francesco Morace. Buonasera Francesco. Buonasera Maria Luisa e a tutti i radioascoltatori. Il tema che hai scelto per questa puntata? Allora, il tema è molto legato alla cronaca internazionale ed è: esiste un consumautore europeo? Una bella sfida, eh? Una bella sfida, anche perché in questo caso abbiamo buone notizie, perché non solo esiste, ma è il concetto stesso di consumautore che nasce in Europa. perché in Europa noi abbiamo una cultura critica, una cultura legata non a caso alle grandi tradizioni filosofiche del nostro continente. Basta andare negli Stati Uniti per capire la differenza, per quanto poi i consumatori europei siano diversi tra di loro, ma c'è un minimo comune denominatore che è non tanto e solo la quantità, la dimensione materialistica come negli Stati Uniti, ma anche la qualità, intesa nel senso anche di una visione critica del consumo. Beh, il consumerismo, così si diceva un tempo, è nato in realtà negli Stati Uniti, però noi in Europa, dimmi se sbaglio Francesco, ne abbiamo dato un'interpretazione molto più inclusiva rispetto al muro contro muro. Sì, più inclusiva e anche più culturale, nel senso che negli Stati Uniti il grande pragmatismo americano porta i consumatori a consonziarsi contro magari i produttori, soprattutto per avere prezzi migliori e servizi migliori. In Europa abbiamo una maggiore attenzione alla qualità dell'esperienza del consumo e da questo punto di vista io credo che l'Erasmus, per quanto non sia un prodotto di consumo, possa essere considerato quell'elemento a cui comunque i ragazzi europei non vogliono rinunciare, perché è una visione culturale ma anche di qualità della vita, delle relazioni nel quotidiano, esattamente come per il consumo. Pensiamo alle tante proposte di prodotto e di servizio legate a questa visione, le compagnie aeree low cost, per dirne una, sono esigenze del consumatore, non hanno senso gli steccati in questo caso. Non hanno senso gli steccati e qui mi spingo a dire che questo sarà quello che salverà l'Europa unita. Cioè io ho l'impressione che in questi ultimi giorni la grande uscita al momento, la Brexit, non solo non abbia causato quell'effetto domino, parlo psicologicamente perché certo, è presto ancora certo. Per dirlo in termini politici, ma ci sia stata una sorta di risveglio, cioè come nei rapporti d'amore, quando perdi qualcosa che davi per scontato ti rendi conto quanto sia importante. Quindi su questo credo che proprio partendo dal consumo e dalle forme europee del consumo ci possa essere un risveglio europeo. Quindi trovare quei punti comuni di aggregazione, insomma, che politicamente sono venuti meno. Esattamente, il minimo comune denominatore che vince sul massimo multiplo, no? Ecco, allora da questo punto di vista, pur riflettendo sulle diversità culturali che esistono, per carità, soprattutto tra un mondo anglosassone e uno mediterraneo, però ci sono ancora tantissime cose che ci tengono uniti. Grazie a Francesco Morace, grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Essere Avere torna domenica prossima. Non mancate un saluto da Maria Luisa Pezzali.